Ad alta voce, Chiara Guidi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Meme era in quei giorni così svagata che accusò Ursula di averle fatto la spia. In realtà aveva fatto la spia a se stessa. Da diverso tempo si lasciava dietro una scia di indizi che avrebbero insospettito persino la persona più ottusa. E se Fernanda ci mise tanto a scoprirli fu perché lei stessa era ottenebrata dai suoi rapporti segreti coi medici invisibili. Ma anche in quelle condizioni finì per notare i profondi silenzi, i sussulti intempestivi, i cambiamenti di umore e le contraddizioni della figlia. Intraprese una sorveglianza dissimulata, ma implacabile. La lasciò uscire con le sue amiche di sempre. La aiutò a vestirsi per le feste del sabato e non le rivolse mai una domanda impertinente che potesse metterla sull'avviso. Aveva ormai molte prove che Meme faceva cose diverse da quelle che annunciava, ma preferì non far trapelare ancora i suoi sospetti in attesa dell'occasione decisiva. Una sera, Meme le disse che sarebbe andata al cinema con suo padre. Poco dopo Fernanda udì i razzi della baldoria. L'inconfondibile fisarmonica di Aureliano II dalle parti di Petra Kotis. Allora si vestì, entrò nel cinema e nell'oscurità della platea riconobbe sua figlia. La sconcertante emozione dell'azzecco le impedì di vedere l'uomo col quale si stava baciando. Ma riuscì a percepire la sua voce tremula in mezzo ai fischi e alle risate assordanti del pubblico. «Mi spiace, amore», gli sentì dire. Fece uscire Meme dalla sala senza dirle una parola. La sottomise alla vergogna di farla passare per la chiassosa strada dei turchi e infine la chiuse a chiave nella stanza. Il giorno dopo, alle 6 del pomeriggio, Fernanda riconobbe dalla voce l'uomo che l'andò a trovare. Era giovane, citrigno, con occhi scuri e malinconici, che non l'avrebbero meravigliata tanto se avesse conosciuto gli zingari. E un'aria sognante, che a qualsiasi donna con un cuore meno severo del suo sarebbe stato sufficiente per capire i motivi di sua figlia. Vestiva di lino molto liso, con scarpe disperatamente difese con strati sovrapposti di biacca, e portava in mano una paglietta comprata il sabato prima. Mai, in vita sua né prima né dopo, doveva essere stato tanto sgomento come in quell'istante, ma aveva una dignità e un dominio di sé che lo mettevano in salvo dall'umiliazione e una prestanza autentica che aveva i suoi punti di cedimento soltanto nelle mani sciupate, nelle unghie scheggiate dal lavoro rude. A Fernanda, tuttavia, bastò appena un'occhiata per intuire la sua condizione di manovale. Si rese conto che indossava i suoi unici vestiti della domenica e che sotto la camicia aveva la pelle rosa dalla rogna della compagnia bananiera. Non gli permise di parlare. Non gli permise nemmeno di varcare la porta che un attimo dopo fu costretta a chiudere perché la casa si era riempita di farfalle gialle. «Se ne vada», gli disse. «Lei non ha nulla da cercare tra la gente per bene». Si chiamava Mauricio Babilonia. Era nato e cresciuto a Macondo ed era apprendista meccanico nelle officine della compagnia bananiera. Meme lo aveva conosciuto per caso un pomeriggio in cui era andata con Patricia Brown a cercare l'automobile per fare una passeggiata nelle piantagioni. L'autista era ammalato e fu incaricato lui di guidare la macchina. Meme poté finalmente soddisfare il suo desiderio di sedersi accanto al volante per osservare da vicino la guida. Al contrario dell'autista titolare, Maurizio Babilonia le diede una dimostrazione pratica. Questo accadde all'epoca in cui Meme aveva cominciato a frequentare la casa del signor Brown e si riteneva ancora non decente che una signora guidasse l'automobile. Lei dunque si era accontentata delle nozioni teoriche e per parecchi mesi Maurizio Babilonia non l'aveva più rivista. Più tardi si sarebbe ricordata che durante il tragitto era stata affascinata dalla sua bellezza maschile, tranne la brutalità delle mani, ma di aver poi anche commentato con Patricia Brown l'irritazione che le aveva causato la sua sicurezza un po' arrogante. Il primo sabato che andò al cinema con suo padre, rivide Maurizio Babilonia col suo abito di lino, seduto a poca distanza da loro, e notò che il ragazzo non badava alla pellicola, ma si voltava a guardarla, non tanto per vederla, quanto per far sì che lei s'accorgesse che la stava guardando. Meme fu infastidita dalla volgarità di quel sistema. Alla fine Maurizio Babilonia si avvicinò per salutare Aureliano II. E soltanto allora Meme apprese che i due si conoscevano, perché il ragazzo aveva lavorato nella prima centrale elettrica di Aureliano Triste e trattava suo padre con un atteggiamento da subalterno. Quella dimostrazione le alleviò il fastidio che le provocava l'alterigia di lui. Non si erano mai visti da soli, né si erano scambiati una parola diversa da quella del saluto prima della notte in cui sognò che lui la salvava da un naufragio e lei non provava un senso di gratitudine, ma bensì di rabbia. Era come avergli dato l'opportunità che lui aspettava, mentre Meme non desiderava che il contrario. E non soltanto con Maurizio Babilonia, ma con qualsiasi altro uomo che si interessasse di lei. Per questo era così indignata, constatando che dopo il sogno, invece di detestarlo, provava un'ansia irresistibile di rivederlo. L'ansia si fece più intensa nel corso della settimana e il sabato fu così incalzante che lei dovette fare un grande sforzo perché Maurizio Babilonia non notasse, quando la salutò nel cinema, che le stava uscendo il cuore dalla bocca. Offuscata da una confusa sensazione di piacere e di rabbia, lei gli porse la mano per la prima volta e soltanto allora Maurizio Babilonia si permise di stringergliela. Meme riuscì in una frazione di secondo a pentirsi del suo impulso, ma il pentimento si trasformò di colpo in una soddisfazione crudele quando si accorse che anche la mano del ragazzo era sudata e fredda. Quella sera capì che non avrebbe avuto un solo istante di pace finché non avesse dimostrato a Maurizio Babilonia la vanità della sua aspirazione e trascorse la settimana mulinando intorno a quell'ansietà. Fece ricorso a ogni sorta di artifici inutili per ottenere che Patricia Brown la portasse a prendere l'automobile. Alla fine si servì del nordamericano rosso di pelo che in quell'epoca era venuto a trascorrere le vacanze a Macondo e col pretesto di conoscere i nuovi modelli di automobili si fece portare in garage. Dal momento in cui lo vide, Meme smise di ingannare se stessa e capì come stavano le cose in realtà. Non poteva resistere al desiderio di trovarsi da sola con Maurizio Babilonia, ma al tempo stesso la indignava la certezza che questi l'avesse capito benissimo, vedendola arrivare. «Sono venuta a vedere i nuovi modelli», disse Meme. «È un buon pretesto», disse lui. Meme si rese conto che stava bruciandosi le ali al lume della sua alterigia e cercò disperatamente un modo di umiliarlo, ma lui non gliene diede il tempo. «Non si spaventi», le disse sottovoce. «Non è la prima volta che una donna fa pazzie per un uomo». Si sentì così indifesa che uscì dall'officina senza aver visto i nuovi modelli e passò la notte ad agitarsi e rigirarsi nel letto e a piangere di indignazione. Il nordamericano rosso di pelo, che in realtà cominciava a piacerle, gli sembrò un bambino in fascia. Fu allora che si accorse delle farfalle gialle che precedevano le apparizioni di Maurizio Babilonia. Le aveva viste già prima, soprattutto nell'officina meccanica, e aveva pensato che fossero attirate dall'odore della vernice. Certe volte le aveva sentite svolazzare sulla sua testa nella penombra del cinema, ma quando Maurizio Babilonia cominciò a incalzarla, come uno spettro che soltanto lei riconosceva nella folla, capì che le farfalle gialle avevano qualcosa a che vedere con lui. Maurizio Babilonia faceva sempre parte del pubblico dei concerti, del cinema, della messa cantata. E lei non aveva bisogno di vederlo per individuarlo, perché glielo segnalavano le farfalle. Una volta, Aureliano II si infastidì tanto per quello svolazzare insistente che lei si sentì spinta a confessargli il suo segreto, come gli aveva promesso. Ma l'istinto l'avvisò che quella volta lui non si sarebbe messo a ridere come al solito. «Cosa direbbe tua madre se lo sapesse?» Una mattina, mentre potavano le rose, Fernanda lanciò un grido di spavento e fece scostare Meme dal luogo dove si trovava e che era il punto del giardino da dove era salita ai cieli Remedios la Bella. Aveva avuto per un attimo l'impressione che il miracolo stesse per ripetersi in sua figlia, perché era stata sorpresa da una repentina palpitazione d'aria. Erano le farfalle. Meme le vide, come se fossero nate all'improvviso nella luce. Il cuore le diede un balzo. In quel momento entrava Maurizio Babilonia con un pacco che, a quanto disse, era un regalo di Patricia Brown. Meme represse il rossore, assimilò il turbamento e riuscì perfino a sorridere con naturalezza nel chiedergli il favore di posarlo sul parapetto, perché aveva le dita sporche di terra. L'unica cosa che notò Fernanda nell'uomo che pochi mesi dopo avrebbe cacciato dalla casa senza ricordarsi di averlo mai visto prima fu il pallore bilioso della pelle. «È un uomo molto strano», disse Fernanda. «Gli si vede in faccia che sta per morire». Meme pensò che sua madre fosse rimasta impressionata dalle farfalle. Quando finirono di potare il rosaio, si lavò le mani e portò il pacco nella sua stanza per aprirlo. Era una specie di giocattolo cinese, composto da 5 scatole concentriche, e nell'ultima c'era un biglietto laboriosamente tracciato da qualcuno che sapeva appena scrivere. «Ci vediamo sabato al cinema!» Meme provò il turbamento tardivo che la scatola fosse rimasta per tanto tempo sul parapetto, alla portata della curiosità di Fernanda, e benché fosse lusingata dell'audacia e dall'ingegno di Maurizio Babilonia, si commosse per la sua ingenuità di sperare che lei andasse all'appuntamento. Meme sapeva già allora che il sabato sera Aureliano II aveva un impegno. Tuttavia il fuoco dell'ansia la arroventò in modo tale nel corso della settimana che il sabato convinse suo padre a lasciarla andare da sola al cinema e a tornarla a prendere al termine dello spettacolo. Una farfalla notturna svolazzò sulla sua testa, fin tanto che le luci rimasero accese. E allora successe. Quando le luci si spensero, Maurizio Babilonia venne a sedersi accanto a lei. Meme sentì di star sguazzando in una fangaia di irrequietudine, dalla quale poteva toglierla, come era avvenuto nel sogno, soltanto quell'uomo odoroso di olio di motore che lei appena riusciva a distinguere nella penombra. «Se non fosse venuta», disse lui, «non mi avrebbe visto mai più». Meme sentì il peso della sua mano sul ginocchio e seppe che tutti e due stavano arrivando in quell'istante al fondo dell'abbandono. «Quello che mi urta di te», sorrise, «è che dici sempre proprio quello che non si deve dire». Divenne pazza di lui, perse il sonno e l'appetito e affondò così profondamente nella solitudine che perfino suo padre le divenne d'impaccio. Elaborò un complicato intrico di impegni falsi per disorientare Fernanda. Perse di vista le sue amiche, voltò le spalle alle buone creanze per potersi vedere con Maurizio Babilonia qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Sulle prime la infastidiva la sua rudezza. La prima volta che si videro da soli nei prati deserti dietro l'officina meccanica, lui la trascinò senza misericordia a uno stato animale che la lasciò estenuata. Ci mise un po' di tempo ad accorgersi che anche quella era una forma di dolcezza. E fu allora che perse la pace. E non viveva altro che per lui, sconvolta dall'ansia di affondare nel suo intorpidente alone di olio strofinato con lisciva. Poco prima della morte di Amaranta, attraversò improvvisamente uno spazio di lucidità dentro la follia e rabbrividì di fronte all'incertezza del domani. Allora sentì parlare di una donna che faceva pronostici con le carte e andò a visitarla in segreto. Era Pilar Ternera. Non appena questa la vide entrare, capì i reconditi motivi di Meme. «Siediti», disse. «Non ho bisogno di carte per indovinare l'avvenire di un buendia». Meme ignorava, e lo ignorò sempre, che quella pitonessa centenaria era la sua bisnonna. E tantomeno lo avrebbe creduto dopo l'aggressivo realismo col quale lei le rivelò che l'ansia dell'innamoramento non trovava requie se non nel letto. Era la stessa opinione di Maurizio Babilonia, ma Meme si ostinava a non dargli retta, perché in fondo supponeva che fosse ispirato da un malsano criterio da operaio. Lei pensava allora che l'amore fatto in un modo sconfiggeva l'amore fatto in un altro modo, perché era tipico della natura degli uomini ripudiare la fame una volta soddisfatto l'appetito. Pilar Ternera non soltanto dissipò l'errore, ma le offrì anche il vecchio letto di tela dove aveva concepito Arcadio, il nonno di Meme, e dove poi aveva concepito Aureliano Cosè. Le insegnò inoltre come prevenire il concepimento indesiderato mediante la vaporizzazione di cataplasmi di senape e le diede ricette di beveroni che in caso di incidente facevano espellere perfino i rimorsi di coscienza. Quel colloquio infuse a Meme lo stesso senso di coraggio che aveva provato nel pomeriggio della sbornia. Tuttavia, la morte di Amaranta la costrinse a rimandare la decisione. Fintanto che durarono le 9 notti, lei non si scostò un attimo solo da Maurizio Babilonia, che si era mescolato alla folla che aveva invaso la casa. Poi vennero il lutto prolungato e la clausura obbligatoria, ed essi si separarono per un certo tempo. Furono giorni di tanta agitazione interiore, di tanta ansietà irreprimibile e di tante bramosie represse, che il primo pomeriggio in cui Meme riuscì a uscire se ne andò direttamente nella casa di Pilar Ternera. Si diede a Maurizio Babilonia, senza resistenza, senza pudore, senza formalismi, con una vocazione così fluida e una intuizione così sapiente che un uomo più sospettoso del suo avrebbe potuto confonderla con una raffinata esperienza. Si amarono 2 volte alla settimana per più di 3 mesi, protetti dalla complicità innocente di Aureliano II, che accreditava senza malizia le coartazioni di sua figlia solo per vederla libera dalla rigidità di sua madre. Micael, sere luminoso, sano, sere.